Radio 24. Libera la voglia di fare. Jean-Luc, dove sei? Ti sto aspettando. Marco! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Corsa lenta di Higuaín che spiazza Lopez. Juventus in vantaggio. La firma è del Pipita. Gizal al centro sul secondo palo, arriva il colpo di testa, il gol. Il gol ha pareggiato il Lione. Tolisso e Diakabi a saltare e Tolisso ha anticipato tutti per l'1-1. Finisce 1-1, una partita di enorme sofferenza per la Juventus e Massimiliano Allegri se ne va negli spogliatoi imbestialito. A marzo dobbiamo decidere questo campionato e andare avanti per la Champions. Però con calma, piano piano. È vero che la gente vuole che vinciamo subito la Champions. La Champions non si può vincere stasera o domani. Si vince più tardi, però piano piano, con calma dobbiamo andare. Però fiducia, io ho fiducia in tutti i giocatori che sono nella mia squadra. Qui partono tutti a 300 all'ora, la Champions non si vinceva stasera e non si vince nemmeno la prossima. La Champions, se avremmo la forza, la possibilità di farlo, si gioca a marzo. Quindi è un cammino come il campionato non si vince, si perde in una partita, ma è un cammino ancora più lungo della Champions. E stasera, dopo l'1-0, preso l'1-1 su punizione, non devi assolutamente più rischiare niente. Ed eccoci al giorno dei critici di Allegri, porte aperte, microfoni aperti, libera la voglia di fare anche critica ad Allegri. 800 24 00 24. Pardo arriva tra una mezz'oretta, viene qui in studio, questa è un'informazione di servizio, poi parleremo oltre che di Juventus Allegri al risultatismo, un nuovo incubo Siviglia, un refrain, un déjà vu. Parleremo ovviamente del casting degli allenatori dell'Inter, parleremo del Napoli, parleremo di qualcosa che non si verificava da 108 anni. Intanto, per la Juventus di questo periodo è stato addirittura creato un neologismo che è risultatismo. Il risultatismo sempre non paga. Buongiorno Massimo Zampini, ti fa inorridire. Buongiorno. Ti fai non ridire questa parola, come direbbe, Sì, il termine non qualcun è proprio, altro? Il termine non è esaltante, il no. Concetto neanche, perché poi è vero che va bene che vincere quella cosa che conta, ma non va frainteso, cioè, ovvero sia l'obiettivo di ogni competizione deve essere puntare alla vittoria, e quello è un discorso. Credere che fatto il primo gol poi le cose finiscano là sarebbe un errore, ma non credo che la Juve abbia ragionato così. Io credo personalmente, anticipo già le prime magari domande, credo che non sia, spero che non sia al meglio della condizione al momento. Sì, da tifoso stavolta ho detto prima, possono non avere torto limitatamente a questa partita o a questo periodo i critici ad oltranza, anche un po' prevenuti nei confronti di Massimiliano Allegri, che stiamo aspettando. 800 24 00 24, tanto ce n'è una marea. Brutta Juventus ieri sera che si complica la vita, forse anche qualche errore di gestione da parte di Allegri, ad esempio nella scelta degli esterni, ad esempio nella idea di sostituire Higuaín, che comunque è uno, ieri sera ha sbagliato un gol pazzesco ad aver segnato su rigore, però è uno che a partita non ancora chiusa forse lasci dentro. Ma guarda, questo non lo so, perché ieri Higuaín non era al meglio, ha fatto molto bene la prima mezz'oretta correndo anche indietro, molto poi dal gol sbagliato si è un po' depresso, anche la squadra non aiutava, però Mandzukic forse dava una mano in più in quel momento anche dietro. Certo, Cuadrado e Alexandro sono due che quando entrano si avverte sempre, e questo sono d'accordo. Per il resto sì, dipende di che si parla, se si parla di una critica per la partita di ieri siamo d'accordissimo, ma anche al periodo, ovvero sì, al periodo la Juve ha battuto il Napoli, ha fatto tanti buoni risultati, non è ancora al meglio. Tanti giocatori non lo sono, Marchisio sta rientrando, c'è Dybala fuori, qualche difensore fuori, eccetera, eccetera. E la condizione delle squadre di Allegri, noi l'abbiamo visto sulla nostra pelle l'anno scorso in un caso ancora più eclatante, crescono più avanti. Quindi questo non mi preoccupa molto, però se mi chiedi l'analisi di ieri, non è una buona partita, credo non sia nulla di male a dirlo. No, no, no, Massimo Zampini, non c'è nulla di male a dirlo. Adesso bisogna vincere a Siviglia, oltre che vabbè, l'impegno casalingo non dovrebbe essere in discussione. Torna quell'incubo, torna quel refrain, non sappiamo se questa squadra possa essere attrezzata. Non mi sembri appartenere alla categoria dei tifosi particolarmente incazzati, ma hai ragione, perché insomma, ampie possibilità di passare il girone, primo posto in campionato, 4 punti. Un anno fa si stava messi peggio da quelle parti. Sì, ti dico la verità, intanto per me la cosa più importante in Champions è sempre la qualificazione, e forse mai come quest'anno la differenza tra primo e secondo posto cambierà il giusto. Poi insomma, dopo 5 scudetti e tutto il resto, io capisco, la per carità, che ogni tifoso voglia di più, non bisogna accontentarsi, però questa spaccatura che vedo almeno sui social tra tifosi perennemente insoddisfatti, disperati, come se non vincessimo nulla da una vita, e qualcun altro che pare non si possa neanche dire una parola contro, dire che ieri si è giocato male, si è soddisfattisti, io sono un po' a metà in questo, ovvero sia, si può dire che il periodo non è dei migliori, che ci si aspetta qualcosa di più, però io l'ho detto anche a voi altre volte, non ritengo scontato nulla, neanche lo scudetto, cioè la Juve, deve giocarsi tutto, bravo. Sì, va bene, ma è così, lo so, voi mi continuate a dire così, e poi ci troveremo a marzo, magari che siamo tutti lì, e mi direte la vedo dura. Io la vedo dura, ma questo lo ripeto fin dall'inizio, fin da tempi non sospetti. Sconcerti scrive che la Juventus fa fatica contro le squadre medie europee, a differenza di Barcellona, vabbè, Real Madrid lasciamo stare, che ieri sera ha pareggiato 3-3 con Legia Varsavia. Insomma, sono scivoloni che possono anche succedere, soprattutto a questo punto della stagione. Ma ti chiedo ancora, prima di salutarti, Massimo Zampini, la Juventus che ieri sera esce tra i fischi dello stadium, giusto o no? No, cioè, premesso che uno fischia quanto vuole, a fine partita si può fischiare quanto si vuole, quindi ieri sera c'era qualcosa. Non è vietato. Non è vietato. Non ho sentito quanto fossero intensi, non ho visto, perché l'ho guardato dalla TV e alla fine non ci ha fatto caso. Se sono dei fischi un po' di delusione, un po' di relativi alla partita, non c'è problema. Io mi nervosisco molto quando fischiano magari anche Hernanes o qualcuno durante la partita, e per me quella è una cosa che non aiuta la squadra. Per il resto, insomma, sì, un po' di delusione ci può stare. Non è che se si vince 5 scudetti di fila poi non si possa più essere insoddisfatti di una partita. No, tutto nella moderazione, tutto nella moderazione. Questo è chiaro. Massimo, ti ringrazio come sempre e ti abbraccio. Grazie Massimo. Ciao, Zampini. Grazie Carlo. 800 24 00 24 è il vostro numero verde, potete scrivere, già lo state facendo, 349 238 6666, sia WhatsApp che SMS, stesso numero. C'è chi scrive ad esempio: Allegri ha rovinato il Milan, che prendeva sempre gol sui calci piazzati, così sta facendo anche alla Juventus. Oppure può leggere anche messaggi contro la Juventus. Qui a marzo ci deve arrivare la maiala, scrive questo ascoltatore, perché può anche non passare il turno. Ora lasciamo stare sulla maiala, ma secondo me a marzo ci arriverà, e arriverà a mio parere sia in Champions League che dentro la Champions League, che in buona posizione in campionato. Però io rispetto le vostre opinioni, salvo insulti e parolacce. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto con un altro ospite subito dopo il traffico. Tutti convocati. I love this game. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta convocati. Io ho visto una Juve fare tanto possesso palla, ma un possesso palla abbastanza difensivo, cioè un possesso palla per far passare il tempo e non per costruire qualcosa, per andare a colpire, dove lì invece la Juve è altrettanto brava e dove deve puntare ad esserlo, ovviamente, no? Però fondamentalmente la Juve è un'altra, e deve essere un'altra sia negli undici che nel modello, insomma. In Europa fai più fatica che in Italia. Questo era Del Piero, critichello nei confronti della Juventus vista ieri sera. Non un caso, prima abbiamo fatto sentire in copertina le due voci bianconere, la seconda era quella di Allegri, avete riconosciuto che era imbestialito quando è uscito dal campo e si è visto dal linguaggio del corpo. Non un caso, secondo me, che la Juventus abbia mandato davanti ai microfoni Evra, che è uno dei grilli parlanti di questa squadra. Una delle consuete superstar di questo programma, Maurizio Crosetti, da Repubblica. Eccoci, ciao. Grazie Eccoci. Mille, baci e abbracci. Baci e abbracci, buongiorno. Buongiorno, dottor Crosetti. È stato, dicevo, ne parlavo prima con Zampini, coniato il termine orrendo per me, risultatismo. Oggi scrivi brutta ma vincente, scrivi su Repubblica, nella tua colonna, non può essere una regola generale. No, non puoi vivere così sperando di fare gol, sapendo che prima o poi lo fai, perché in Europa è diverso, perché comunque a forza di giocare male anche i risultati possono non venire, perché non, la misura dell'universo non è il nostro campionato, anche se non è neanche così infame e infimo, e poi soprattutto bisogna cambiare passo, questa è una Juve che cammina, una Juve stanca, che segna molto con Higuain, però lo leva sull'1-0 sparacchiando il pallone fuori sperando di conservarlo, poi arriva l'1-1 e Higuain non c'è più, per provare invece a arpionare come contro il Napoli 2-1, e altre cose che non mi piacciono, Dani Alves ed Evra sono oggi due terzini di riserva della Juve, molto meglio Lichtsteiner sulla destra, che peraltro ha anche più vocazione offensiva, e Alessandro sulla sinistra. Che dire non c'è, che dire sta camminando, sta vagando, due centravanti che fanno scopa, non è it's meglio che one come la pubblicità del gelato, sono due centravanti che stanno a 20 metri uno dall'altro e fanno scopa, non è così, ma lo sa anche Allegri, non è come spiegare a noi ad Allegri che ci vuole un centravanti e non due specchi del Luna Park uguali ma diversi. E Dybala fuori, infortunato. Pjanic non è mai arrivato di continuo. Piazza è infortunato anche lui. L'età media un pochino avanza. E la difesa che comincia a dare qualche segno di scricchiolino. Un po' di infortuni, Chiellini fuori. Bonucci ieri sera comunque si è anche lui un po' incricchiato. Poi è rimasto fino a quasi tutta la partita. Però anche lui ci toccava la coscia. Insomma, è una Juve che non è a posto, che ha qualche malanno di crescita o di crescenza, come dicevano le nonne, no? Forse sì, però i malanni di crescita di solito li hanno i ragazzi. Questa Juve è vecchiotta, quindi per avere malanni di crescita ed essendo già cambiato, ben cresciuta... Ha cambiato parecchio. Dai, critichiamo un po' Allegri, continuiamo a criticare un po' Allegri, così metà del popolo bianconero è contento, perché so che è così, l'invito, già hanno risposto Omar e Maurizio, tra poco li interpelliamo. Pjanic tra un po' lo vediamo in porta, perché sono stati provati tutti i ruoli di centrocampo, o in porta o in difesa, c'è anche un altro ruolo secondo me, o anche in panchina, magari dovrebbe essere provato lì tra un po', secondo me, perché alla fine con Marchisio guarito sì, non è che ci sia moltissimo d'altro. Poi se la Juve conquistasse magari qualche punizione oltre a ricevere quell'assurdo incredibile rigore, che nemmeno all'oratorio, come direbbe Cravero, nemmeno all'oratorio di Venaria si concedono rigori del genere, no? Però se riuscisse la Juve a conquistare qualche punizione dal limite, allora ecco, forse Pjanic ci riuscirebbe a giustificare se stesso. Finora giustificare la sua presenza in campo. No, detto che appunto Higuain e Mandzukic fanno scopa, manca Dybala, che è il trasformatore di voltaggio di quell'attacco, perché a quel punto eventualmente può valere anche quello che abbiamo visto mille volte anche in nazionale, e cioè Bonucci che pum salta al centrocampo, innesca Dybala, che magari qualche pezza la copre. Sì, ma soprattutto una cosa che non abbiamo ancora visto quest'anno, Bonucci certo, ma soprattutto Marchisio, perché Marchisio e Dybala insieme non hanno giocato praticamente mai. Marchisio è tornato quando è uscito Dybala, e quello è un asse bello e soprattutto verticale, no? Nel senso che va in profondità, il pallone è preciso, anche se certamente Dybala con Higuain è costretto a stare un po' più lontano dalla porta, e quindi tutto quello che guadagni, ed è molto quello che guadagni con Higuain, ha fatto 9 gol di cui soltanto uno su azione, vuol dire che lui i palloni piglia tutti e li ficca tutti dentro. Sì, e quindi per una squadra che ancora non gioca per lui, ma con lui, e neanche sempre, è moltissimo questo. Non è una, un aggravante, un attenuante, ma c'è la Juve che impara a giocare per lui, con Dybala che sta bene, Marchisio col passo giusto, che Dira che magari cresce, Pjanic che sa dove andare, è una Juve che cresce probabilmente con i due esterni titolari. Sì, io insisto, secondo me Dani Alves, pur essendo un grande giocatore, un grande ex giocatore, anzi un ex grande giocatore, è ancora un giocatore ma forse non è più così grande, ecco, mettiamo l'ex nel punto giusto della frase, e forse un po' un lusso che no, poi Alessandro adesso, in queste condizioni fai fatica a tenerlo fuori come si fa fatica a tenere fuori un altro che è un trasformatore di voltaggio quando entra, che viene impiegato part time, che è Cuadrado. Giuro che non sono juventino, ma io continuo a ricevere questi messaggi che mi fanno anche sorridere. C'è uno che mi scrive: va bene essere juventino, ma così sfacciatamente per un conduttore di una radio che sta nella top 10 degli ascolti non va bene. Ok, ognuno ha e si tiene il suo parere. Comunque, e soprattutto creda a quello che vuole, non è un problema assolutamente. Maurizio, prima di salutarti, parliamo insieme con un paio di ascoltatori. Il primo è Omar da Milano, critico nei confronti di Allegri, ci scommetto. Omar, dove è finito? Si è perso nella nebbia che avvolge Milan e Inter. Maurizio da Como, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, sono Maurizio. Sì, io mi trovo d'accordo su quello che avete detto. Non mi sento tanto di criticare Allegri, però, perché mi sembra che il problema della Juve sia quello che attualmente ha a disposizione a centrocampo. Sì. In questi due anni è un reparto che si è indebolito e che non è stato rinforzato per sostituire chi piano piano ecco, ha cambiato. Che giocatore regalerebbe lei alla Juventus? Non lo fosse so, Babbo Natale? Non lo so, però sembra quasi che non ci siano in giro giocatori da comprare, perché chi cercavano non voleva forse venire alla Juve o costavano troppo. E dopo hanno speso 90 milioni per Higuaín, quindi non penso che sia un problema di soldi. Però a me mi sembra che, ad esempio, i due giocatori che ha preso la tanto parlata in questi giorni Inter, cioè João Mario e Banega, non erano due brutti centrocampisti. E inseriti nella Juve, ad esempio, secondo me guarda, io le faccio un nome, lo giro anche a Maurizio. Ma questo Progetti, solo per ma dire che fatto, ci sono i fatto, giocatori l'ha fatto e Pjanic forse ieri. Non è uno di questi, ecco. No, Pjanic è un eccellente giocatore che però alla Juventus non si è ancora presentato. Ieri è stato fatto il nome di Verratti e grazie al cavolo, quello lo so anch'io, Maurizio. Sì, ma indubbiamente João Mario invece tantissimo, Verratti anche. Ma in quel ruolo, se sta bene e se cresce, come dire, dal punto di vista geofisico, geometrico e atletico, c'è Marchisio. Alla Juve quello che manca davvero è un Vidal, cioè un centrocampista percussore che fa gol. Cioè, il centrocampo della Juve aveva con Vidal una decina di gol in più all'anno. Sì, e spesso sono i 10 vero. Gol che ti portano a vincere gli scudetti, vabbè, li vince anche senza Vidal, ma in finale di Coppa, cioè decidono certe partite, un po' come un Hamsik, ecco. Ecco, se è la bacchetta magica, un Hamsik. Bravo negli inserimenti, che ha la castagna da fuori. Più di Verratti, quindi. Perché Verratti, certo, Verratti avercene, quel ruolo lì non c'è più nessuno. Locatelli, ragazzi, apriamo pure il casting anche tra gli ascoltatori. Chi regaleresti alla Juventus avendo la bacchetta magica? Se Maurizio Cosetti fosse Harry Potter, sarebbe appunto Hamsik, secondo qualcun altro Verratti. A proposito di casting, Maurizio, poi ti lascio. Uh-huh. Inizia il casting degli allenatori dell'Inter, poi abbiamo anche un bel montaggio. Si va dal basic Pioli agli estremi più bizzarri. Secondo me il più bizzarro potrebbe, a parte il Tata Martino, che mi sembra però sia del quale sia caduta la candidatura. Il più bizzarro è Marcelino, ex allenatore del Villarreal. Vabbè, ci manca anche Marcelino. No, io credo che l'Inter abbia bisogno di tornare ai fondamentali, cioè un allenatore italiano che conosce la materia, che sa di cosa sta parlando, che non fa il fenomeno, che si spiega, che è spiegato, come si dice, scende il cane che lo piscia. Sì. Ci vuole un allenatore così, sì. Quindi Pioli va benissimo. Hiddink risolvo problemi, è il Wolf del calcio europeo, no? Arriva lì con la chiave inglese, il tubo, spurga il gabinetto, il lavabo non gocciola più e anche la lampada alogena miracolosamente si illumina ancora, però poi lo fa di mestiere, ma, come le pilottine dei porti che traghettano le navi. Ma ne ho un progetto, è mio cognato Roberto, che è un grandissimo, con le mani ripara tutto, Bob aggiusta tutto, no? Però l'Inter ha bisogno di un allenatore futuribile o futurista. Futurista, che, il problema è che chi lo decide... Cos'è e qual è il futuro dell'Inter? Prima scegliessero un presidente, è vero, e un direttore sportivo, beh, c'è, per carità, però insomma una linea di comando. Magari non in scadenza di contratto come Ausilio. Magari no, insomma, poi se tu scegli quella roba lì e crei una linea, una dorsale appenninica, probabilmente senza smottamenti, fai con la dorsale appenninica dell'Inter e poi scegli anche l'allenatore giusto, certo. Che secondo me però deve essere italiano, non perché non sono amante degli stranieri, ma perché... Quando tu devi partire ricostruendo, devi partire da uno che sa dove mettere le mani nella calce, nella sabbia, bravo, nei sassi, bravo, nei mattoni, insomma, un bel carpentiere. Ci vuole. La logica dice questo, grazie Maurizio. Ci vuole Fuxas, ci vuole un carpentiere. Grazie Maurizio Crosetti. Ciao. Ciao. Grazie come sempre. Danilo! Eccomi qua. Da Bologna cosa ha da dirmi? Complimenti a Crosetti per la chiave inglese, perché è stata bellissima. A me piacerebbe ascoltare sì, uno juventino, di quelli proprio juventini della curva, che facesse un'analisi della partita di ieri sera. Mi piacerebbe molto sentire dire, per usare un eufemismo, quanto è stato ridicolo il rigore che ha avuto a favore la Juve e quanto è andata bene in termini di risultato, ecco, perché poi alla fine... E allora Danilo, lei sa, conosce il nostro numero verde? Come no? Lo dica. 800 24 00 24. L'inviti lei? Noi siamo qui. Se vuole sentirli, invito uno juventino di quelli proprio che critica Allegri, di quelli che non sono mai contenti, a dire: perfetto, ieri sera ci è andata proprio bene a non perdere una partita di quel genere. Poi volevo salutarvi solo chiedendovi una cosa: quanto c'è di vero secondo voi sull'arrivo eventuale di Simeone all'Inter? E qui concludo. Questa è la domanda da 100 milioni di dollari. È chiaro che all'Inter piace moltissimo Simeone, è chiaro che sarebbe l'allenatore dei sogni, è altrettanto evidente che ha un lungo contratto con un Atletico Madrid che è la squadra che sta volando tra tutte le spagnole in Champions League, è l'uomo dei miracoli, non è Bobo aggiusta tutto, non so quanto ci sia di vero c'è certamente che l'Inter lo sogna. Ci fermiamo per la borsa, poi arriva anche Pardo. 800 24 00 24, siete tutti invitati, anzi tutti convocati. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Anche tu ami l'indagatore dell'incubo. Raccontaci perché con una mail a dylandog@radio24.it e potrai ricevere in regalo una copia di Dylan Dog dopo un lungo silenzio. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni sabato alle 15 su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Andiamo, let's go! Tutti convocati. Dunque, sulla questione Inter arrivano vari messaggi, tra cui non è il caso di confermare Mister Vecchia, allenatore della primavera, ma magari anche no, serve qualcuno con maggiore esperienza. C'è chi propone Seedorf e chi il mago Telma, ma comunque... Pierluigi Pardo però al telefono, poi farà una comparsata, facciamo un... No, faccio tutta la puntata, sono qui con gli amici che hanno partecipato e vinto l'asta di Charlie di Star, abbiamo fatto tra l'altro ascoltatori di tutti i convocati di Radio 24, sì. Mi chiedono anche dov'è il signor Cruciani. Il signor Cruciani, aspetta che guardo, non c'è, no. Arriverà adesso. No, ma l'ho intravisto prima tutto di nero vestito. Sarà la mazza caffè. Senti, no, parliamo di confermare Vecchi, mi sembra un po', no? Bizzarro, mi sembra un'altra bizzarra. No, a questo punto. Ma può essere una soluzione, ci candidiamo, poi facciamo il casting, ci mettiamo dentro serenamente anche i due sottoscritti. Tu, io faccio il tuo vice, però. No, così, no, io faccio il tuo così vice. Così le lattine le prendi tu. Io faccio il tuo vice. Vabbè, ce la giochiamo a pari o dispari. Mandiamo Capuano, mandiamo Capuano. Ma bravo, bravo, grande idea. Noi facciamo lo staff. Dell'ombra. Senti, parlavamo di Juve, di risultatismo. Oggi doveva essere il giorno dei criticoni di Allegri. Non ne ho ancora trovati, ma li aspetto. 800 24 00 24. Certamente si può criticare la Juventus di ieri sera, che forse meritava anche di perdere alla fine. Ieri era giocato una partitaccia dopo essere passato in vantaggio con Higuain, e poi ha lasciato praticamente il campo al Lione da lì fino alla fine con quel pareggio meritatissimo. Si può criticare, si può dire mancano Dybala, manca Chiellini, mancano dei pezzi importanti, Marchisio è appena rientrato, si possono trovare anche delle giustificazioni, ma sulla Juventus di ieri sera qualche critica ad Allegri si può anche muovere. Ad esempio, prima con Crosetti si parlava dei due esterni. In questo momento Lichtsteiner e Alexandro offrono migliori garanzie rispetto a quelli che hanno giocato ieri sera. Pjanic si può provare a questo punto in porta oppure in panchina. Ma allora, è una partita che conferma quello che si è visto ultimamente. Non è una partita clamorosamente migliore o peggiore di quelle precedenti. Semmai si può discutere o riflettere sul fatto che poi in Europa la Juve c'è sempre un pizzichiello di sfiga e in Italia c'è sempre un pizzichiello di sfortuna, almeno per quanto riguarda le partite interne. Nel senso, non è una partita molto diversa da Juve-Napoli, anzi forse Napoli ha fatto meglio del Lione. Questa cosa è abbastanza in linea con la storia di sempre bianconera, no? Nel senso che poi la Juve in Europa non si può dire che sia stata molto fortunata, anzi altro negli episodi, premesso che fortuna, sì, e sfortuna sono categorie dello spirito abbastanza relative, e gli allenatori potrebbero inorridire nel sentire parlare di fortuna e sfortuna, però insomma negli episodi chiave sicuramente in Europa la Juve non è che abbia avuto moltissima fortuna negli ultimi anni, da Barcellona Juve, rigore su Pogba, Galatasaray Juve con la neve, a Bayern Juve nei minuti finali, quindi mentre l'Italia, insomma, c'è questo stellone che protegge lo Juventus Stadium in ogni partita interna, per cui vince anche quando non si brilla. Sì, poi qualcuno parla di stellone col fischietto, ma questa è un'altra storia di cui facciamo anche a meno. Diamo la parola agli ascoltatori. Omar. Buongiorno. Dica. Grazie di avermi convocato. Grazie a lei. Allora, io sono d'accordo con Allegri. Cioè, la squadra in questo momento cammina e lo sta anche lui, perché io credo che uno metta in campo sempre la squadra migliore e non vada a cercarsi i rigori vari. Ieri purtroppo Buffon ha sbagliato l'uscita, perché secondo me quella partita finisce 1-0 e Lione mi sembra non abbia mai tirato in porta. Poi insomma, bah sì, forse è vero, 1-2. E io poi dico una cosa, continuate a dire, io vi sento sempre, seguo sempre Pepardo, il centrocampo della Juventus della finale di Barcellona non c'è più, giusto? Quindi giusto. A questo punto la Juve è un pochino più debole di quella squadra lì. E poi viene a mancare l'unico che salta l'uomo in mezzo al campo come Dybala. E un po' di corsa da parte di qualche giocatore come Khedira, che in questo momento cammina. Vabbè, ma sul fatto che cammini, io direi che Allegri dovrebbe spiegare perché la Juve, che dire, cammina, la Juventus cammina, va al piccolo trotto, non ha il cambio di ritmo, eccetera, eccetera, eccetera. E in questo posso essere critico, oppure chiedere, se è possibile chiedere spiegazioni ad Allegri. Sentiamo anche Dino da Milano, che invece con Allegri ad Allegri ha qualcosa da dire, mi pare. Buongiorno a tutti. Dica. Grazie di avermi convocato. A lei. Io sono contrario, proprio contro al massimo Allegri, perché se c'è i giocatori che sono in piena forma, hai visto che all'andata questi qua ci hanno messo sotto e abbiamo portato a casa il risultato grazie a Buffon. Mi lasci fuori quelli gli esterni che sono in forma splendida, cioè anche lui insiste con Pjanic. Pjanic non è entrato. Allora, nei momenti che puoi metterlo dentro, lo metti dentro, ma se no lascialo in panchina, fai giocare il biondo, Lemina, che fisicamente è forte, ha voglia di Sì, possiamo essere, io posso essere anche d'accordo con questi rilievi, forse anche Pardo, per quanto riguarda la partita di ieri sera, insomma, limitatamente alla partita di ieri sera. Io Pjanic, collegando i due interventi che abbiamo appena sentito, sicuramente la Juve non ha più Pirlo, non ha più Vidal, non ha più quel centrocampo con Pogba, però Pjanic, Fedira, Marchisio è un centrocampo che si avvicina a quello, no? Uh-huh. Nelle prospettive, nelle potenzialità. Sinceramente, l'anello debole in questo momento è Pjanic. Fedira sappiamo che ha delle incognite di carattere fisico, Marchisio torna da un lungo infortunio, Pjanic fin qui non è entrato ancora al meglio e quindi quel centrocampo lì è sicuramente nettamente inferiore rispetto a quello della Juve della finale di Berlino. Questo non ci sono assolutamente dubbi, però non credo che insomma la strada sia far giocare Lemina, la strada sia semmai far crescere Pjanic e fare in modo che arrivi trovare anche un ruolo a sto ragazzo qua, perché li ha provati tutti, ha provato ogni ruolo del centrocampo, dal ruolo alla Pirlo, alla mezzala, al trequartista, ma non funziona da nessuna parte. È chiaro che bisogna aspettarlo. Filippo Maria Ricci ieri sera è stato osservatore per la Juventus, giusto Filippo? Ciao. Buongiorno, esatto, sì, sono andato lì a Siviglia, per conto della Juve, in casa dell'incubo Siviglia, perché stiamo per arrivare a un déjà vu. Eh sì, come l'anno scorso, no? Esatto. Solo un anno fa. Costò carissima la trasferta al Pichuan l'anno scorso alla Juventus, no? Secondo posto, presa un po' sotto gamba, secondo posto, e poi Bayern Monaco, no? Sì. Quest'anno, ieri però la cosa più bella è che ieri a Siviglia erano avvelenati con la Juventus. Perché? Perché loro, non sono sbruffoni per niente, non si sentono sicuri, nonostante siano primi, devono fare un punto in due partite, no? Sì. In casa con la Juve e trasferta a Lione. E hanno l'incubo dell'Europa League, no? veramente un incubo per loro. Che uno dice, vabbè, magari mal che vada, vai in Europa League, magari... Non ci voglio andare, datemi il quarto posto nel girone, lo firmo subito. Veramente, hanno l'incubo dell'Europa League, proprio non gliela puoi nominare, e ieri loro erano tutti contenti, infatti è stato divertente perché nel tabellone apparivano i risultati delle altre partite, sì. Quindi grande giubilo ai gol del Legia Varsavia, sì. Ovviamente, sì. Però quando ha segnato Tolisso, lo stadio un po' ci è rimasto un po' male. Perché dice no, come? Loro preferivano magari anche perdere il primo posto, no? Con la Juve, possono però sempre farlo, volevano essere, esatto, perché posso tra l'altro una cosa che rischiano comunque. Beh, andare in Europa League è complicatissimo, dovrebbero perdere con la Juve, con Lione, un punto in due partite, piuttosto complicato. No, però guarda, ieri cioè, c'era una questo morte, terrore c'era. Ragazzi, ma come? Ci arrivavamo qua tutti quanti belli qualificati, vabbè, poi a viso aperto ci si giocava al primo posto. Finalmente facciamo sta coppa, arriviamo prima alle soglie della primavera giocandoci questa coppa e non andando a vincere la solita ormai indigesta Europa League. Ragazzi, un attimo di pazienza, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Tutti convocati. Allora, un'altra cosa che volevo far notare, sottoporre a loro signori Pierluigi Pardo e Filippo Maria Ricci, quattro spagnoli di segno diverso. Pardo l'altra sera ha visto e ha commentato per Mediaset la sconfitta del Barcellona con Guardiola, quindi freccetta verso il basso per il Barça, direi freccetta verso il basso anche per un improbabile Real Madrid ieri sera a Varsavia, Atletico Madrid che vola ad ali spiegate. Chi comincia? Comincia Pardo, che ha visto Pardo, Barça. Pardo, vai. Io ho visto una delle partite più assurde della storia recente. Addirittura. Ho visto una partita che è stata tutto il contrario. Nel primo tempo il Barcellona aveva massacrato il Manchester City al netto di un rigore che c'era per il City nei primi minuti sullo 0-0, ma poi stava dominando la partita e dando proprio una lezione di calcio, di possesso palla, di pericolosità. E poi nel secondo tempo il Barcellona non è sceso in campo, quindi È stata una partita molto divertente, molto quasi quasi didattica, nel senso che nel primo tempo veramente abbiamo visto anche nel settore cronaca i pregi del Barcellona, nel secondo tempo abbiamo visto i difetti del Barcellona, sì. Ma soprattutto si sono viste delle cose veramente molto interessanti, per esempio che il Barcellona nel primo tempo, quando giocava bene, riusciva a fare possesso palla quasi attirandosi addosso l'uomo, quasi sfidando l'uomo, perché tu se l'hai addosso, se riesci poi a uscirne, e più superiorità numerica, è più chiaro. Campo poi hai a disposizione. Quindi, quanto Guardiola hai visto in questo City per il momento? Beh, ho visto, ma non ho visto tanto Guardiola. Ho visto un grande calcio di ripartenza, ma ho visto un grande Guardiola, nel senso che ho visto un Guardiola che, conoscendo benissimo il Barcellona, ne conosce i punti deboli, conosce i limiti, e quindi ha fatto una partita murignana. Io ho visto Inter-Barcellona l'altro. Inter-Barcellona andata a semifinale di Champions del 2010, quella roba lì, cioè il fatto che se tu riesci a disinnescare il possesso palla del Barcellona e riesci a fare pressing in maniera giusta con i blitz, la partita ti va bene per qualche motivo e si mettono paura, poi gli puoi fare del male. Chiaro. Filippo, cosa ne pensi? Sì, gli è andata bene, perché voglio dire, se beccano 2-0 probabilmente non si riprendono più. L'errore di Sergi Roberto, no, fondamentale, che regala l'1-1, perché esattamente per quello che diceva Pierre, questa abitudine, e comunque anche di fronte alle sciagure non si cambia, perché questo, no, abbiamo visto adesso con gli errori di Ter Stegen e ai tempi di Guardiola con gli errori di Victor Valdés, e adesso con questo errore di Sergi Roberto, loro davanti all'uomo, loro vengono pressati, provano a saltarlo, passaggi stretti e via dicendo. Poi voglio dire, c'è stata la traversa del 2-2, no? Anche quella rigirare un'altra volta la partita. È divertente, qui l'analisi è stata, abbiamo, no, i grandi teorici del tiki-taka e via, un gol dopo l'altro, che non so, è come è stato, era angolo del City, gol del Barcellona, no? Punizione per il Barça, gol del City. Sì. Quindi questo è stato, ovviamente, chi ce l'ha un po'. E sul Real Atletico cosa mi dici? Allora, Real è male, la situazione è grave, molto più grave di quello che si possa pensare. Finora, attenzione, Zidane non perde da 26-27 partite, no? Quindi sai, parliamo, uno dice male, poi dopo magari male sta l'Inter, no? Male del Real Madrid, no? Appena vinto l'undecima, ma tanto male, però detto questo, facendo questo, diciamo, piccolo inciso, la situazione non è buona. Ieri lui deve far giocare questi tre davanti e non sono in forma. Ronaldo, almeno l'anno scorso, al Malmo gli ha fatto 8 gol, all'Espagnol ha fatto 8 gol, allo Shakhtar 5. Adesso, se Ronaldo non segna a Legia Varsavia, diventa difficile. Non lo può togliere. E ieri ha provato con questo 4-2-4. Cioè, quando poi i due difensivi erano Kovacic e Kroos. Kovacic gli ha anche salvato le terghe. Hanno preso la traversa, magari vincevano pure. 3-3. Però la situazione è grave. La difesa va qua. È chiaro, attenzione, ci mancano Casemiro, Modric e Sergio Ramos. Sì, alcuni giocatori estremamente importanti. Però è un periodo, anche storicamente, mi viene da dire, in cui al capitolo infortuni ci sono le caselle e le infermerie piene. Ragazzi, abbiamo 3 minuti però per il casting sull'Inter. Vorrei partecipasse anche Filippo Maria Ricci. Sentiamo. Io credo che nel calcio, come nella vita, non bisogna accontentarsi mai. Bisogna sempre guardare avanti, bisogna sempre cercare di migliorarsi, bisogna sempre cercare di richiedere prima di tutto a se stessi il massimo. I didn't think one moment of let me not spoil the beautiful memory of 2009. Nos encontramos en una situación en la que llegamos a semifinales por primera vez en la historia del Villarreal. Bueno, porque ahí, a partir de mi estadía en Estados Unidos durante la última Copa América, he conocido gente que está vinculada aquí. Allora, stasera c'è X Factor, ma noi cominciamo subito, anche se abbiamo solo un paio di minuti. Io sto con la soluzione italiana, insieme a Crosetti, con Pioli. Pierluigi Pardo, confermi Hiddink, giusto? Sì, sì, io confermo Hiddink, confermerei il capello se ci fosse, cioè, se ci fosse serve se, secondo se, me sì. Un allenatore di grande esperienza, di grande personalità, di grande allure, capace di, però al tempo stesso semplice, se sì, serve sì, un grande sì, allenatore semplice, sì, sì. Hiddink secondo me è come il top, detto, come anche Capello sarebbe il top. No, certo, come hai detto prima, Crosetti è quello che entra in casa, Bob aggiusta tutto e ti sistema le cose con la calcina e con le chiavi inglesi. Filippo Malerici invece, Marcelinho, no, ma Tata Martino, vabbè, lo scartiamo, no, rimane Marcelinho. Marcelino è un ottimo allenatore, però permettimi di dire una cosa, Pierre Hiddink, l'anno scorso doveva aggiustare, ha preso il Chelsea 15esimo, l'ha lasciato decimo. È riuscito a non portare l'Olanda all'Europeo per la prima volta in 7 europei consecutivi. Cioè, io non lo vedo proprio come un fixer, eh? Però, vabbè, mi avete chiesto di, detto questo di Hiddink, mi avete chiesto di Marcelino. Marcelino è un ottimo allenatore, però è chiaro che io cioè, in quel calderone rischia di bruciarsi riccamente. Ma va, davvero. Cioè, è chiaro che lo spagnolo forse è più simile all'italiano di quanto sia l'olandese, anche se l'ottimo Frank poi un po' di lo spagnolo lo parlava. Però, no, mi sembra che... Sono d'accordo con Pier quando dice che ci vuole un uomo di esperienza. Sì. Alla fine, probabilmente, di tutti questi nomi, sì, io se dovessi scegliere, forse anch'io andrei su Pioli. Marcelino è una bella carta... Te la giochi prendendolo a maggio, ma no? Parlandoci, ma potrebbe essere un debur, il fratello. Ronald. Comunque ci candidiamo anche noi qua, noi tutti quanti, io, Pardo, Filippo Maria Ricci, Giovanni Capuano, Giorgio De Luca, siamo tutti candidati per il ruolo di allenatore dell'Inter. Grazie Filippo, Pierluigi stai con noi, torniamo dopo il GR. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Rieccoci. Tutti convocati. Il professor dottor Toni Damascelli spesso non è stato l'ambulatorio spesso non è stato tenero nei confronti di questa Juventus. Non... sei un po' più tenero oppure no? Colpe di Allegri ci sono o ci sono attenuanti? Non devo essere né tenero né duro. Allora sii realista. Sono realista, questa Juventus non mi piace, non gioca bene, ma tanto bisogna aspettare marzo, ma come ho scritto per domani, ho pensato a Lucio Battisti e ai giardini di Marsa. Sì. Al 21 del mese i nostri soldi erano finiti. Io trovo questa situazione di Allegri che dice che bisogna aspettare marzo, una considerazione non da grande allenatore, quale lui è, così da gestore di una squadra che non ha una identità, ancora siamo al 3 di novembre. Sì. Poi dice bisogna che certi uomini si adattino al gioco, può darsi. Sono quei tre, Sì, sono chiaro, quei tre alla fine della abbiamo fiera, capito, questo l'abbiamo capito. Questo l'abbiamo capito in maniera piuttosto chiara, aggiungerei forse qualche equivoco sui terzini, perché non mi è sembrata la coppia più appropriata quella di ieri sera. Forse in questo momento meglio l'Ixtaner e Alessandro. Alessandro non può giocare in coppa. Può giocare, non è nella lista. Non è nella lista, hai ragione. È nella lista, quindi non può giocare. No, il problema è che non riesco a capire perché non giochi a tre davanti. Che come giocano tutte le squadre europee, hanno comprato Higuain. Higuain nel Madrid giocava con Cristiano Ronaldo a destra e con Benzema. Lui Benzema. Nel Napoli giocava con Carecon e Mertens oppure Insigne. Nella nazionale argentina scegliete voi chi mette lì, tra Messi, Di Maria Che Lavezzi, mi sto dimenticando altri importanti. Magari Dybala. Sì, Dybala anche. Sì. Nella Juventus gioca con Dybala che non gli sta proprio di fianco e basta. Sì. Oppure Mandzukic e basta. Sì. Perché se è veramente proibito mettere quella che una volta si chiamava ala, sì, cioè Cuadrado, o che mi sembra un discreto modificatore di partite. Bravo. Però, bisogna aspettare marzo. La squadra mi sembra non è finita, la Juventus è un po' sfinita, questo sì. Sì. E Evra ieri sera nel dopo partita ha detto una cosa molto importante che non può passare in cavalleria: quando siamo in difficoltà la squadra non ha perderà fiducia e non ha personalità. Oh. Hai detto poco, No, ma sappiamo che Evra, insomma, Tony, ti ricordi perfettamente come anche lo scorso autunno la situazione, anzi, lo scorso autunno la situazione fosse molto peggiore. E allora chi entrò non in campo, ma in sala stampa davanti ai microfoni? Evra, Buffon, bravo. Bonucci. Ma difatti, secondo me, Evra sarà nel futuro allenatore. Forse allenatore della stessa Juventus. Magari nell'Inter. Sarà un allenatore, perché è un ragazzo molto intelligente nel senso proprio etimologico, cioè sa leggere non solo le situazioni di gioco, perché poi commette anche degli errori, vedi, partire col Bayern famosa, ma sa leggere la situazione, cioè sa prendere in mano, è un capitano senza fascia. Verissimo. Ed è importante in questo momento, ma c'è poco da parlare, da dire, poi bisogna fare. E quando tu hai in mezzo al campo, prima avevi tre bravi calciatori, non bravi, bravi, come Hernanes, Khedira e Pjanic. Adesso hai messo dentro un martello come Sturaro, che però insomma vale un qualsiasi centrocampista di bei tempi, Tagnin, eccetera. Sì. E c'hai questo ragazzo, Pjanic, che non sai bene che cosa era, un principino. Non è ancora arrivato. Non pervenuto, perché ogni volta bisogna cambiare posizione. E non ne ha trovata ancora una. La prossima è la panchina, parliamoci di sì, la panchina, ma non è che la panchina deve far posto a chi? Ah no, appunto, questa è la domanda. No, ma io sto anche facendo questo casting, oltre a quello che sull'allenatore dell'Inter, sto facendo anche questo casting. Chi regalereste alla Juventus per migliorare la qualità del centrocampo? Ieri Serena mi diceva Verratti, oggi ad esempio Crosetti mi ha detto Hamsik. Tu chi diresti? Guarda, Hamsik è stato cercato dalla Juventus, ma non rientra nelle mie nelle mie preferenze. Sì. La Juventus ha bisogno di un uomo di personalità, uh-huh. Ma personalità che non si compra al mercato. Uh-huh. La personalità è una cosa che hai. Per esempio Marchisio, adesso qualcuno si arrabbierà tra i tifosi juventini, era il quarto centrocampista insieme con Pirlo, Vidal e Pogba, veniva considerato il quarto. Adesso per fortuna di Allegri e della squadra è tornato Marchisio, certo. Che è il primo, certo, migliore di Khedira come movimento e come, non parlo di esperienza, capacità di inserimento. Io non faccio il casting, che può essere Matuidi, Witzel, chi vogliono loro, hanno mille talent scout. Io dico che questa squadra è una squadra che vive di troppa calma. Anche ieri sera Evra ha detto il contrario di quello che ha detto l'allenatore nel dopopartita. L'allenatore ha detto: non riesco a capire perché ci siamo messi a cercarli invece di gestire l'1-0, e Evra ha detto: siamo rimasti troppo indietro ad aspettare. È chiaro, e ha ragione Evra. Perché si mettono d'accordo, ha ragione Evra, punto e basta. Secondo me, a mio parere. Anche secondo me. Allora, io Tony, vorrei farti chiederti il favore di rispondere a qualche nostro ascoltatore, perché mi diverto moltissimo. Fausto, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere stato convocato. A lei, dica. Niente, io praticamente ho sentito uno spettatore, uno che è un ascoltatore, che prima ha detto che la Juve cammina. È verissimo, ma queste responsabilità sono di Allegri, in quanto poi i giocatori che corrono li tiene in panchina, tutti praticamente. Perché prendiamo Cuadrado, Alessandro, questa gente qua la lascia in panchina, parti sempre molto prudente, parti sempre con una squadra molto difensiva e hai paura di andare a portare avanti la palla, ma con un atteggiamento così non se ne fa di strada. E io sono juventino. Prego, Tony Damascelli. No, ma non devo aggiungere nulla, la Juventus non riesce ad avere un ritmo costante, ogni tanto una luce e poi mettere mezze luci. La panchina o non la panchina è una situazione generale, basti vedere il brasiliano Dani Alves come si comporta in campo. Io mi ricordo quello che Gianni Agnelli disse a Giulio Cesar, un altro grande brasiliano, giocante della Juventus, un giorno negli spogliatoi davanti a tutti, disse: ogni tanto mi sembra che lei stia passeggiando sulla spiaggia di Rio. Ecco il discorso, si può aderire anche al signor, che non venga a sternare a Torino. Mi sembra che a Torino è difficile. Sai, si dice sempre che gli anni passano per tutti, no, Tony? Sì, ma non è che passano in un mese. No. Dice: ah, rispetto nel calcio gli anni passano in un mese. Sì. Lui avrebbe bisogno di una frusta. Io so che questa è una provocazione, però io vorrei vedere questa squadra allenata da Conte. Non parlo dei risultati finali, perché a Massimiliano Allegri ha portato la squadra in finale di Coppa. Parlo del comportamento, della reattività di alcuni giocatori e del gruppo intero. Il Chelsea sta cambiando pelle rispetto all'inizio, perché si sta contizzando, sì, anche in maniera esasperata. Così è stata la nazionale, così era la Juventus sua, che poi aveva certi limiti. E ricordo agli juventini che Conte aveva chiesto 3 uomini, sì, per rinforzare la squadra, che erano Nainggolan, Cuadrado e uno tra Lewandowski o Mandzukic. Sì. Stranamente, partito lui, sono arrivati. Qualcuno è arrivato. Due su tre sono arrivati. C'è Michele invece della provincia di Battipaglia, che ha un altro argomento molto interessante, un altro argomento di questi giorni, un altro argomento da casting. Buongiorno Michele. Buongiorno, Michele da Andria, provincia di Andria. Paese dei Matarrese. Niente, il mio argomento era sull'Inter. Sì? La mia domanda era: che ne pensate di Simeone come allenatore e Pierpaolo Marino, il grande Pierpaolo Marino, come direttore sportivo, visto che attualmente la situazione dell'Inter è poco chiara, è caotica, e servirebbe qualcuno di carisma, sia come l'allenatore e sia per quanto riguarda il direttore sportivo. Simeone e Babbo Natale a metà campo. Sì. Fino a fine anno. Sì, sì. Simeone più Babbo Natale a metà campo, la fata turchina. Mi sembra che sia in questo momento un sogno, Tony. Sì, penso poco che sia un sogno. Il problema è che chi compra Simeone? Qui bisogna sempre decidere chi decide, chi è il capo della cordata, chi domani mattina dice: andiamo a prendere questo calciatore, questo allenatore, questo direttore sportivo, facciamo l'Inter. Non stiamo parlando di un supermercato, stiamo parlando di un grande club, di una squadra che 6 anni fa, non 150 anni fa, ha insegnato football, nel senso che ha vinto tutto quello che c'era da vincere a livello mondiale. Sì. E allora chi decide questo? Cioè, è una società decapitata in questo momento. Il vizio capitale... Sì, o forse con troppe teste. Sì, con troppe teste mostra mille teste. Nessuna delle quali con pieni poteri, e questo è importante, con un direttore sportivo secondo me pure bravo, che è Ausilio, che è in scadenza di contratto così come gli altri, e arriva la delegazione cinese che non so quale sia la competenza di loro signori per decidere. Almeno dall'altra parte del naviglio invece hanno fatto questi fantomatici investitori, di cui ancora esattamente non conosciamo i nomi né quanti siano eccetera, hanno fatto la cosa più intelligente si potesse fare. Prendi Fassone, ma non perché è Fassone, perché è uno che ti è piaciuto, ti ha fatto simpatia, di cui ti fidi e dici: va bene, pieni poteri a te, Gagliani tanto è in uscita, andrà in Lega, e dunque mi sembra abbiano fatto la scelta più logica possibile nel momento in cui acquisisci una società. Sì, devo dirti che io ho molti dubbi su questa situazione societaria del Milan, perché non è ancora chiara. Cioè, per passare da Gagliani a Fassone, al di là di Fassone, delle qualità di Fassone, insomma, Gagliani, col quale io non ho rapporti personali particolari, Ma Galliani è un dirigente importante nella storia del Milan, con errori e con omissioni, tutto quello che si voglia, però non si cancella la storia della società cambiando la proprietà, sarebbe troppo facile, a meno che questa proprietà non si individui e non si faccia individuare con una strategia vera, non soltanto con i denari. Sì, questo è chiaro. I denari cosa sono se non sono poi confortati dalla perizia, dall'esperienza, dalla competenza. Ecco, sì, sì. La gestione di Gabigol, per esempio, però la gestione di questo affare è una gestione da follia, secondo me. Secondo tutti la gestione da follia. E questo perché? Perché non per colpa di De Boer o di Mancini o di Mazzarri o di... per colpa di un'Italia che puntualmente prende questo popolo nerazzurro, e in questo caso purtroppo il popolo nerazzurro non ha nemmeno capo, non ce l'ha, lo cerca e quando lo trova si mette quasi a ridere. Sì. Mi auguro soltanto che questa sera, è una nota a margine, l'Inter giochi con il lutto al braccio, perché è mancato il papà comunque dell'azionista, sì, Toir. Lo dico, ma non per un omaggio, per una questione di rispetto. Per una questione di rispetto. No, per almeno dare un segnale di organizzazione, un segnale che c'è qualcuno che pensa alla storia di questo club. In fondo è il presidente, ecco, e sarebbe... Ma lo faranno sicuramente. Sì. E questa sera che l'Inter onori la propria storia, non c'entra il calcio italiano, la propria storia e la propria maglia, perché sennò ci risiamo con le barzellette, ci risiamo con l'Inter che fa ridere, no. Questo appartiene ai discorsi da bar, con tutto il rispetto che ho dei bar che frequento. Altro discorso da bar di cui io pure rispetto è quello: adesso sono rimasti in ballo, facciamo il casting, no? X Factor, sono rimasti in ballo questi nomi. Pioli, il Cincinnati, il normalizzatore, quello che arriva e conosce bene l'ambiente, persona saggia ed equilibrata, e tu lo conosci molto bene, io credo, ne sono certo. Oppure Hiddink, che ormai fa il traghettatore di professione, giramondo, quello il che re, tutti il re di Olanda. Il re di Olanda, chi? Sì. Oppure Hiddink, il re di Olanda. Sì, il re di Olanda, certamente. Sì. Quindi chi? Ma guarda, io fossi un dirigente dell'Inter oggi avrei dei problemi, però prenderei più Reia di Stefano Pioli. Io fossi Stefano Pioli non andrei ad allenare una squadra per 6 mesi, a meno che non mi dica, anche perché qualcosa ha fatto Stefano con la Lazio, secondo me 7,5-8 nella sua avventura laziale. Sì, però il problema è uno come Stefano Pioli, con quelle caratteristiche, con quel carattere, è l'uomo adatto in questo momento, perché parlando con un vecchio grande interista ieri, grande, di cui non faccio il nome ma solo il cognome, Mazzola, abbiamo detto che una volta addirittura la squadra in campo, con Mazzola in campo, era in difficoltà tattica, in panchina c'era Elenio Herrera, e tre giocatori, Armando Picchi, Luis Suarez e lui, avesse detto tre giocatorini, si guardavano negli occhi e uno dei tre disse: adesso facciamo noi. Sì. E presero in mano la situazione. Domanda: finito Cambiasso, finito Materazzi o chi volete, oggi chi nell'Inter può fare una cosa del genere in campo nel momento di difficoltà? La leadership manca ad ogni livello nell'Inter, Tony. La leadership manca ad ogni livello, a partire da quelle 1000 teste del mostro cui facevamo riferimento. No, io parlo in campo. Nel momento di partita difficile, partita intossicata, partita che ha degli spigoli. Chi è che dice, ragazzi, allora me, oppure facciamo questa perché De Boer non ce la fa, oppure perché Mazzarri non ce la fa, oppure perché Mancini non ce la fa. Chi lo fa? Lo faceva Cambiasso, lo faceva Samuel, lo faceva Materazzi, lo faceva... Oggi chi c'è? No, ma Icardi? Medel? Assolutamente, ma manca, in parte un discorso assimilabile a quello della Juventus. Ultimo che ti propongo, Fabrizio da Milano. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno a voi. Dica. Io direi, partirei per dare la colpa a Marotta, perché se la squadra è questa l'ha fatta lui, primo. Poi, seconda cosa, con gli uomini che ha, Allegri potrebbe cambiare modulo di gioco, giocare con solo due centrocampisti davanti alla difesa e, per cambiare gioco e creare la superiorità numerica, andare con Quadrato, Dybala e Pjanic, con unica punta Higuain. Però noi per tutto l'anno continueremo a dire ma la squadra deve cercare il gioco non ce l'hai, non c'hai più Pirlo che ti lancia da 30 metri con la palla calibrata sul piede, automaticamente non è più l'uomo che salta, è l'unico uomo che tieni in panchina, che salta l'uomo lo tieni in panchina, Piazza non si sa che fine ha fatto, Dybala è infortunato, pure Piazza è infortunato e a me sembra un buon giocatore. Tony, io non credo che Marotta abbia costruito con una squadra. La seconda parte sono totalmente d'accordo, sulla prima parte Marotta non si alza al mattino e dice adesso compriamo questo, questo e quest'altro. Marotta, come insegna la storia juventina, a parte il periodo folcloristico della triade impersonata da un uomo solo, Jean-Claude Blanc, che era mai nella storia di Juventus, è accaduto una cosa del genere, mai, presidente, direttore sportivo e amministratore delegato, a parte quel periodo qualsiasi decisione viene presa dal gruppo che tira fuori i denari. Quindi figurati se Marotta decide di tirare fuori 90 milioni per uno, 30 milioni per l'altro, 20 per l'altro, di vendere Pogba, eccetera. Marotta e Paratici, insieme con Andrea Agnelli e con Mazzia, che è l'uomo diciamo della proprietà, che ha il controllo della gestione finanziaria, decidono una strategia di mercato. Certo. Grazie Tony, grazie come grazie sempre. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro, grazie. Tony Damascelli. Allora, adesso cambiamo totalmente argomento e continente e sport e pianeta quasi, per andare da Simone Sandri a New York, perché nella notte italiana in America è successo qualcosa che non capitava da 108 anni, ma che era stato profetizzato. Ehi, bambina, piccola, grazie. Puoi tenerlo, io ho un pitbull adesso, andiamo. Torre dell'orologio! Ehi, ragazzi, 100 dollari, vuoi salvare la torre dell'orologio? Mi dispiace, no. Dai, è un monumento storico importante. Aspetta, un'altra volta, Un fulmine lo ha colpito 60 anni fa. Aspetti un attimo, i Cubs hanno vinto le World Series. Contro il Miami. Già, incredibile, chi lo avrebbe detto? C'era una possibilità su 100. Vorrei poter tornare indietro all'inizio della stagione e puntare un po' di soldi sui... No, non ti devo dire che... Ma... Che cosa ha detto? Ho detto che vorrei poter tornare all'inizio della stagione e puntare un po' di soldi sui gas. In Ritorno al Futuro 2 era stato tutto già previsto. Ciao Simone Sandri. Buon pomeriggio Carlo. Dunque la maledizione è finita. La maledizione dei Chicago Cubs, che da 109 anni non vincevano il titolo di le World Series, il titolo di baseball, si è chiusa questa notte contro Cleveland. Sì, è stata veramente un anno molto particolare per lo sport americano e per un po' in generale, se vogliamo, perché è successo veramente inaspettato un po' a tutte le latitudini. Quello dei Cubs è forse più inaspettato di tutti, perché se consideriamo che da 108 anni manca il titolo ai Cubs, e il modo in cui si è sviluppata la serie, anche i Cubs erano sotto 3-1, hanno ripreso dai capelli questa serie, erano in vantaggio da 7-5-1, li sono fatti riprendere, sono andati negli extra inning, partita sospesa per 17 minuti per pioggia, e alla fine vittoria negli extra inning dei Cubs. È veramente qualcosa che spesso si parla, si dice copione hollywoodiana, ma veramente perché è un copione hollywoodiana, è proprio questo. Sì, immagino come sia stata accolta in America questa vittoria. Sì, si fa gara a citare appunto come è cambiato, come sono cambiati gli Stati Uniti, che non erano neanche stati 50 stati, c'erano tipo nel 1908 New Mexico, Arizona, Alaska e Hawaii non erano ancora stati, c'era ancora l'impero ottomano, non c'era la fase guerra mondiale, non era ancora stata coniata, il Titanic non era ancora stato costruito, e la fase più bella l'ha descritta in Chicago in un tweet che mi è fatto virare pochi giorni fa, che adesso l'ultima volta che i Cubs hanno vinto le World Series non c'era internet, non c'era, quella è l'ultima cosa. Forse solo per internet. Certo. Simone, io ti ringrazio, intanto ci sentiamo a Stretto Giro di Posta, perché è iniziato tutto, anzi la stagione del football sta entrando nella fase calda, quella dell'NBA è appena iniziata, quindi con Simone Sandri a New York ci collegheremo presto e spesso. Grazie a lui e a tutti, grazie a Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzoni in redazione. Domani siete tutti convocati, ogni giorno alle 2 dopo l'Europa. Pisa il rosso, devi pisa stop, sennò il video va avanti 4 ore. Dai!